e quindi il messaggio viene veicolato con convinzione e con sicurezza, quindi denota questo andamento una sicurezza in quello che si sta dicendo, una convinzione in quello che si sta dicendo, e quindi convince anche chi lo ascolta. Poi nella seconda parte del messaggio, nella seconda parte appunto del comizio, si passa ad una parte molto più esortativa, dove la voce incomincia ad avere delle impennate, a sporcarsi, a incitare, e quindi la parte esortativa, che è quella che poi trasporta il contenuto nella parte operativa, nell'azione da parte di chi ascolta. E questo andamento è abbastanza tipico di tutte le persone che devono convincere, indipendentemente dal contenuto, da Charlie Chaplin quando faceva il grande dittatore nel film, e al comizio di Hitler, per esempio. Quindi queste sono le caratteristiche che gli uomini politici, non solo i politici, utilizzano per catturare la nostra attenzione, per convincerci. Quindi con queste indicazioni possiamo anche un po' valutarli, dottor Fussi. Sì, infatti lo abbiamo un po' fatto con i politici italiani, ma era una ricerca che poi era stata fatta anche in America quando Obama... Chi è il politico che convince di più, che usa queste tecniche in modo migliore? Direi che da un lato abbiamo la vocalità, sì, e l'andamento prosodico di Monti e di Vendola, che sono, sì, più basati sulla prima parte, quindi sulla monotono, sì, sul monotono prosodico, e quindi ci sono i contenuti ma manca poi la parte esortativa. Grazie. Al contrario, sì, dal lato opposto abbiamo un Grillo dove c'è soltanto la parte esortativa, e quindi il contenuto veicolato dentro la parte esortativa è forse un atteggiamento sbagliato che può essere momento della... Sì. Della ribellione o del momento della protesta accattivante, ma poi sembra quasi che manchino i contenuti. Grazie al professor Fussi e a Danila Satragno. Noi ci sentiamo lunedì. Essere e benessere.